Il flauto di corno. Tamil viveva in una casetta vicino al mare con suo nonno, l'uomo più anziano e più saggio del villaggio. Tamil ricordava di avere sempre visto in casa il flauto d'argento scintillante che stava appeso sopra la porta d'ingresso. Il nonno diceva che era un flauto magico, intagliato nel corno di un unicorno. Il nonno non lo sapeva suonare, ma diceva che chiunque lo avesse potuto fare avrebbe risvegliato la magia selvaggia e ne sarebbe diventato parte. «Ci sono diversi tipi di magia», raccontava a Tamil, «ma la magia selvaggia è la più antica e la più forte». Una sera, in cui era solo, Tamil decise di andare a fare una passeggiata. Aprendo la porta vide il flauto scintillare contro il legno scuro della parete. Tamil lo prese e corse verso la spiaggia. Si arrampicò su uno scoglio poco distante dalla riva, si sedette e accostò il flauto alle labbra. Immediatamente si sentì pervaso da una strana sensazione. Quasi per magia, le sue dita cominciarono a intonare un antico motivo. Sembrava che il mondo intero fosse silenzioso. Non appena calò la marea, Tamil scese dallo scoglio e, continuando a suonare il flauto, seguì il mare che si ritirava. La luna era già alta quando vide davanti a sé uno strano palazzo, un tempio diroccato solitamente nascosto dal mare. Tamil scivolò dentro attraverso una breccia nel muro di cinta. Si trovò in un vasto cortile affollato da uomini e donne, alti e dall'aspetto regale, che sedevano a lunghe tavole imbandite di frutta e vino. Nessuno di loro si muoveva, né parlava, né respirava. A capotavola una donna stava in piedi davanti ad un alto trono, col volto proteso verso il cielo. Tamil osservò lo spettacolo a lungo, poi si voltò e tornò nel mondo esterno. Si sedette su una roccia e cominciò a suonare. Ma questa volta la magia lo indusse a suonare un motivo differente e anche l'incantesimo fu diverso. La sabbia cominciò a muoversi e una grossa testa sbucò poco dopo. Assomigliava ad un cavallo bianco argenteo, ma in mezzo alla fronte aveva un corno spezzato. Tamil capì che si trattava dell'unicorno. Pian piano la creatura si liberò dalla sabbia ed era già riuscita a drizzarsi sulle zampe quando delle mostruose alghe marine la avvilupparono tutta, tirandola giù di nuovo. Per un po' Tamil guardò impotente l'unicorno lottare con le alghe mostruose. Poi all'improvviso ebbe un'idea. Si voltò, lasciò cadere il flauto e tornò nel cortile. Tolse il mantello all'uomo più vicino e scoprì che sul fianco portava una spada. Con le due mani unite la sfilò dal fodero e corse di nuovo verso l'unicorno. Nel suo sforzo per liberarsi, l'unicorno aveva scavato una profonda buca nella sabbia, ma era ovvio che le alghe avrebbero avuto la meglio. Con un grido di sfida, Tamil impugnò la spada e cominciò a tirar fendenti al mostro di alghe, mentre l'unicorno nitriva e scalciava. Finalmente, anche l'ultimo tentacolo cadde sulla sabbia. Tamil e l'unicorno, fianco a fianco, uscirono dalla buca, poi si squadrarono a vicenda. Tamil vide che al collo della creatura pendeva una bellissima catena con un gioiello. L'unicorno si voltò e trottò oltre le mura verso il cortile. Tamil raccolse il flauto e lo seguì. Camminando lentamente e con orgoglio, a testa alta, l'unicorno avanzava nel cortile, verso i tavoli, fino ad arrivare presso la donna che stava ritta davanti al trono. Si fermò a due passi da lei, fissandola attentamente. Poi si girò per guardare Tamil. Appoggiando con cura il flauto e la spada sulle pietre consunte, il ragazzo corse da lui. L'unicorno chinò la testa e Tamil sganciò la catena dalla sua criniera e prese il gioiello. L'animale fece un rapido cenno in direzione della donna, ma Tamil sapeva già cosa fare. C'erano tre bassi scalini che conducevano al trono. Ritto sullo scalino più alto, Tamil alzò il gioiello sul capo della donna, come una corona. Poi glielo mise al collo. Improvvisamente le torce appese al muro fiammeggiarono di luce e il cortile si riempì di colori e musica. Gli uomini e le donne cominciarono a muoversi. Nessuno parlava, ma tutti si girarono verso il trono e si chinarono. Il ragazzo non capiva se facessero riverenza all'unicorno o alla donna, ma poi vide che anche lei si chinava davanti all'animale, che ricambiò il saluto. Poi si voltò e si inchinò davanti a Tamil. Turbato, anch'egli fece un inchino e scese gli scalini. Riprese in mano il flauto e la spada e rimase lì, esitante. Si guardò intorno e vide che l'uomo cui apparteneva la spada gli si avvicinava lentamente, sorridendo. Tamil gli porse la spada, che l'uomo prese ringraziandolo gentilmente. «Prego», sussurrò Tamil. «Chi siete?» «Siamo i signori dell'alta magia», rispose. «Siamo prigionieri da quando ci fu rubato il gioiello, tanto, tanto tempo fa. Ci è voluta una magia più antica e più forte della nostra per poterlo recuperare. Noi tutti ti siamo grati, ma ora devi andartene. Questo non è posto per te». Tamil uscì dal cortile barcollando, abbagliato dai colori e dalla confusione. Trovò l'unicorno che lo aspettava, agitando con impazienza gli zoccoli. Improvvisamente il vento cominciò a soffiare e all'orizzonte apparve un bagliore oscuro. Il mare stava avanzando di nuovo. L'unicorno toccò dolcemente il ragazzo. Tamil, stringendo forte il flauto, gli montò sulla schiena e entrambi corsero verso la spiaggia. Raggiunsero la scogliera pochi minuti prima della marea. Tamil discese dalla groppa dell'unicorno e per un attimo rimasero a guardarsi. Poi l'unicorno si volse e si allontanò, galoppando verso l'acqua. Tamil continuò ad osservarlo finché non sparì dalla sua vista. Poi si portò il flauto alla bocca. Ma prima che potesse suonare una sola nota, una mano forte gli afferrò il polso e una voce decisa disse «No». Era il nonno. «Hai avuto una notte di grande fortuna», continuò. «Pochi sono arrivati vicini alla magia selvaggia come te stanotte. Ora lascia perdere. Certi poteri non sono fatti per te. Dammi il flauto e torna a casa». Il ragazzo ubbidì e camminò tranquillamente a fianco del nonno lungo il sentiero che portava alla loro casetta. E guardando indietro, non vide altro che lo spuntare dell'alba.